simile a scritti spirituali. Chiamato ti amo l'amore eterno, per questo ti ho inviato a me, la misericordia. E sì, queste parole, questo pensamento di te, sono state sempre per me, la terza di madre. Come sai bene, oh mio Dio, le stime e le sfumature. In te non mi è più amore, e io non avevo ancora sottolineato questo concetto di terza. La misericordia sono il mio riflesso di questo amore. Quando la sua luce attraversa la sala d'ombra in cui è entrato usando, la misericordia è il movimento della testa della luce nelle tenebre. La luce splende nelle tenebre. E se è venuto ad illuminarla, ha abbandonato il suo regno per visitarmi e plasmarmi secondo la tua immagine lanciata. È venuta perché è l'amore. Essa procede dall'amore. Raggio spirito, la luce severa. Essa ha bisogno di effondersi, di comunicarsi, di irradiarsi. Essa porta in sé questo bisogno, perché è nata dal seno del Padre, da dove è origine di questo movimento. Le tenebre in cui essa non vive sollecitano questo bisogno. Essa dovrebbe venire mai chiamata in legge e in noi. Per me questo momento è irresistibile, corrisponde talmente a questo bisogno essenziale del suo essere, che essa ne esce, zampina, si slancia, fa questo passo da gigante sulla strada che le si avanza, esulta comunque.